i miei dubbi. Avevo creduto, ahimè, che non vedere più Albertin mi sarebbe stato indifferente, persino gradevole, finché la sua partenza non m'aveva rivelato il mio errore. Allo stesso modo la sua morte mi aveva fatto capire quanto mi fossi ingannato, augurandomi a volte la sua morte e supponendo che sarebbe stata la mia liberazione. E allo stesso modo, quando ricevetti la lettera di Aimé, mi resi conto che, se fino a quel momento non avevo sofferto troppo crudelmente dei miei dubbi sulla virtù di Albertin, era perché in realtà non s'era affatto trattato di dubbi. La mia felicità, la mia vita, avevano bisogno che Albertin fosse virtuosa e avevano stabilito una volta per tutte che lo fosse. Munito di questa convinzione preservatrice, potevo lasciare che la mia mente si baloccasse tristemente con delle supposizioni cui dava forma, ma cui non prestava fede. Mi dicevo, forse le piacciono le donne. Come si dice, potrei morire stasera. Lo si dice, ma non ci si crede. E si fanno progetti per il giorno dopo. Si spiega così come mai, credendomi a torto, incerto se ad Albertin piacessero o no le donne, e credendo dunque che un fatto colpevole a carico di Albertin non m'avrebbe portato nulla che non avessi già preso in considerazione, io abbia potuto provare di fronte alle immagini, per chiunque altro insignificanti, evocate dalla lettera di Aimé, una sofferenza inaspettata, la più crudele che io avessi mai conosciuta, e che formava con tali immagini, con l'immagine, ahimè, di Albertin, una sorta, come si dice in chimica, di precipitato, dove tutto era indivisibile e di cui la lettera di Aimé, separata, come ho fatto, in modo del tutto convenzionale, non può assolutamente dar l'idea, già che ciascuna delle parole che la compongono era immediatamente trasformata, colorata per sempre, dalla sofferenza che aveva appena innescata. Signore, il Signore vorrà perdonarmi se non ho scritto al Signore più sollecitamente. La persona che il Signore mi aveva incaricato di contattare si era assentata per 2 giorni e, desideroso di corrispondere alla fiducia che il Signore aveva riposta in me, non volevo tornare a mani vuote. Vengo ora dall'aver finalmente parlato con la persona, che ricorda benissimo, Mademoiselle A. E me, che aveva qualche rudimento di cultura, avrebbe voluto scrivere Mademoiselle A in corsivo o fra virgolette. Ma quando voleva mettere le virgolette, tracciava una parentesi. E quando voleva mettere qualcosa fra parentesi, la metteva fra virgolette. Allo stesso modo Françoise diceva di qualcuno che rimaneva nella mia vita per dire che ci risiedeva e si può risiedere 2 minuti, invece di rimanere, già che gli sbagli della gente del popolo consistono molto spesso semplicemente nello scambiare fra loro, come d'altronde ha fatto la lingua francese, termini che nel corso dei secoli hanno preso reciprocamente l'uno il posto dell'altro. A sentir lei, la cosa che il Signore supponeva è assolutamente sicura. Prima di tutto, era lei che si occupava di Mademoiselle A ogni volta che veniva ai bagni. Mademoiselle A veniva molto spesso a far la doccia con una donna alta, più vecchia di lei, sempre vestita di grigio, che l'inserviente, senza saperne il nome, conosceva per averla vista spesso andar dietro a delle ragazze. Ma da quando conosceva Mademoiselle A, non badava più alle altre. Lei e Mademoiselle A si chiudevano sempre in cabina e ci restavano molto a lungo. E la signora in grigio dava almeno 10 franchi di mancia alla persona con cui ho parlato. Come mi ha detto questa persona, potete ben immaginare che non se ne stavano sfogliar verze, altrimenti non m'avrebbero dato 10 franchi di mancia. Qualche volta Mademoiselle A veniva anche con una donna che aveva la pelle molto scura e portava l'occhialetto, ma il più delle volte Mademoiselle A veniva con delle ragazze più giovani di lei, specialmente una, molto rossa. Tranne la signora in grigio, le persone che Mademoiselle A portava abitualmente non erano di Balbec e spesso, anzi, dovevano venire piuttosto da lontano. Non entravano mai insieme, ma Mademoiselle A entrava, mi diceva di lasciare aperta la porta della cabina che aspettava un'amica e la persona con cui ho parlato sapeva cosa voleva dire. La persona non ha potuto darmi altri dettagli, non ricordandosi più tanto bene, il che è comprensibile dopo tutto questo tempo. Del resto questa persona non cercava di sapere perché è molto discreta e perché era suo interesse, dato che Mademoiselle A le assicurava un bel guadagno. È stata sinceramente colpita dalla notizia della sua morte. È vero che, così giovane è una gran disgrazia per lei e per i suoi. Aspetto gli ordini del Signore per sapere se posso lasciare Baalbek, dove credo non ci sia altro da sapere. Ringrazio ancora il Signore del viaggetto che mi ha consentito di fare e che mi è riuscito molto gradevole, tanto più che il tempo non potrebbe essere più favorevole. Quest'anno la stagione promette bene. Si spera che il Signore vorrà fare in estate una piccola apparizione. Mi sembra di non avere più niente di interessante da dire al Signore, eccetera. Per capire a che profondità queste parole penetrassero dentro di me, bisogna ricordare che le questioni che io mi ponevo riguardo ad Albertine non erano questioni accessorie, indifferenti, questioni di dettaglio, le sole in realtà che noi ci poniamo riguardo a tutti gli esseri che non sono noi, il che ci consente di andare per la nostra strada rivestiti d'un pensiero impermeabile in mezzo alla sofferenza, alla menzogna, al vizio e alla morte. No. Per Albertine la questione era di fondo. Chi era in sostanza? A cosa pensava? Cosa le piaceva? Mi mentiva o no? La mia vita con lei era stata penosa come quella di Swan con Odette? E così la risposta di Aimé, pur non essendo una risposta generale ma particolare e anzi proprio per questo, era in profondità che ci colpiva. Albertine? Aimé? Vedevo finalmente davanti a me, in quell'arrivo di Albertine attraverso il vicolo alle docce in compagnia della signora in grigio, un frammento di quel passato che mi sembrava non meno misterioso, non meno orribile, di quanto temessi quando lo immaginavo chiuso nel ricordo, nello sguardo di Albertine. Certo, chiunque altro avrebbe potuto trovare insignificanti quei particolari cui l'impossibilità, ora che Albertine era morta, di farli confutare da lei conferiva l'equivalente di una sorta di probabilità. È anzi probabile che agli occhi di Albertine, anche se fossero stati veri, anche se li avesse confessate le sue colpe, queste sarebbero state sprovviste, apparissero innocenti oppure riprovevoli alla sua coscienza, deliziose oppure scipite alla sua sensualità, di quell'inesprimibile impressione d'orrore da cui io non potevo scinderle. Con l'aiuto del mio amore per le donne, e sebbene per Albertine non dovessero essere state la stessa cosa, un po' mi potevo immaginare anch'io quello che lei provava. E certo era già un principio di sofferenza rappresentarmela che desiderava come tante volte io avevo desiderato, che mi mentiva come tante volte io le avevo mentito, che si preoccupava per questa o quella fanciulla, che spendeva per lei, come io, per Mademoiselle de Stermaria, per tante altre, per le contadine che incontravo in campagna. Sì, tutti i miei desideri mi aiutavano in una certa misura a capire i suoi. Era già una grande sofferenza, dove più i miei desideri erano stati vivi, più crudeli erano i tormenti in cui si trasformavano, come se in questa algebra della sensibilità essi ricomparissero con lo stesso coefficiente, ma con il segno meno al posto del segno più. Per Albertine, stando a quel che potevo giudicarne da me stesso, le sue colpe, per quanto forte fosse stata la sua volontà di nascondermele, il che mi faceva supporre che si giudicasse colpevole o che temesse di addolorarmi, le sue colpe, dal momento che le aveva preparate a modo suo nella chiara luce dell'immaginazione in cui agisce il desiderio, le apparivano fatte, nonostante tutto, della stessa natura del resto della vita, piaceri per lei che lei non aveva avuto il coraggio di rifiutarsi, dispiaceri per me, che lei aveva cercato, nascondendomeli, di evitarmi, ma piaceri e dispiaceri che potevano figurare in mezzo agli altri, piaceri e dispiaceri della vita. Per me, invece, era dal di fuori, senza alcun preavviso, senza alcuna possibilità da parte mia di rielaborarle, era dalla lettera di Aimé che m'erano arrivate quelle immagini di Albertine che, avvicinandosi alle docce, preparava la mancia. Proprio perché in quell'arrivo silenzioso e deliberato di Albertine con la signora in grigio io leggevo l'appuntamento che avevano preso, il loro accordo di venire a far l'amore in una cabina delle docce, il che implicava un'esperienza della corruzione, l'organizzazione ben dissimulata di tutta una doppia esistenza, proprio perché quelle immagini mi portavano la terribile nuova della colpevolezza di Albertine, esse mi avevano immediatamente provocato un dolore fisico da cui non era più possibile separarle. Ma subito il dolore aveva reagito su di esse. Un fatto oggettivo, un'immagine, è diverso a seconda dello stato interiore con cui lo si affronta. E il dolore è un modificatore della realtà non meno potente dell'ebbrezza. Combinandosi con quelle immagini, la sofferenza ne aveva fatto qualcosa di assolutamente diverso da ciò che una signora in grigio, una mancia, una doccia, la via in cui aveva avuto luogo l'arrivo deliberato di Albertine con la signora in grigio, potevano essere per qualsiasi altra persona, scorcio su una vita di menzogne e di colpe quale non avevo mai concepita. La mia sofferenza le aveva immediatamente alterate fin nella loro materia. Non le vedevo nella stessa luce che rischiara gli spettacoli della Terra. Erano il frammento di un altro mondo, di un pianeta sconosciuto e maledetto, una visione dell'inferno. Inferno era l'intera Baalbek. Tutti i paesi vicini da cui, stando alla lettera di Aimé, Albertine faceva spesso venire le ragazze più giovani che portava alle docce. Il mistero che avevo immaginato un tempo nel paese di Baalbek si era dissipato quando ci avevo vissuto, che avevo poi sperato di riafferrare conoscendo Albertine, perché avevo pensato, quando la vedevo passare sulla spiaggia ed ero tanto pazzo da desiderare che non fosse virtuosa, che si dovesse incarnare in lei, come se ne impregnava orribilmente, adesso, tutto quanto riguardava Baalbek. I nomi di quelle stazioni, Apollonville, diventati così familiari, così tranquillizzanti quando li sentivo tornando di sera dai pranzi dei Verdurin, adesso che pensavo come Albertina avesse abitato in una, fosse arrivata passeggiando nell'altra, si fosse spinta più volte in bicicletta fino alla terza, eccitavano in me un'ansia più crudele della prima volta, quando m'aveva tanto turbato scorgerle dal trenino locale assieme alla nonna, prima di arrivare a quella Baalbek che ancora non conoscevo. Fra i poteri della gelosia c'è quello di rivelarci quanto la realtà dei fatti esteriori e i sentimenti dell'animo siano qualcosa di sconosciuto che si presta a mille supposizioni. Crediamo di sapere esattamente le cose e quel che pensa la gente per la semplice ragione che non ce ne importa. Ma non appena abbiamo, come hanno i gelosi, il desiderio di sapere, davanti a noi c'è un caleidoscopio vertiginoso nel quale non distinguiamo più niente. Albertine mi aveva ingannato. Con chi? In quale casa? In che giorno? Quando lei mi aveva detto quella certa cosa? Quando io ricordavo di aver detto questo o quest'altro nel corso della giornata? Non ne sapevo niente. Non sapevo nemmeno quali fossero stati i suoi sentimenti per me, se ad ispirarli fosse stato l'interesse, la tenerezza. E di colpo ricordavo questo o quell'incidente insignificante. Per esempio, che Albertine aveva voluto andare a Saint-Martin-le-Vatu dicendo che le interessava il nome, semplicemente forse perché aveva conosciuto qualche contadina di quel luogo. Ma che Aimé m'avesse riferito quanto gli aveva detto la donna delle docce non contava nulla, dal momento che Albertine avrebbe eternamente ignorato che me l'aveva riferito. Sempre, nel mio amore per Albertine, il bisogno di sapere era stato superato dal bisogno di mostrarle che sapevo, perché questo faceva cadere fra noi la separazione di illusioni diverse, pur non avendo mai per risultato che Albertine mi amasse di più, al contrario. Ora, da quando lei era morta, ecco che il secondo dei due bisogni si era amalgamato con l'effetto del primo, rappresentarmi il colloquio in cui avrei voluto metterla a parte di quel che avevo scoperto, non meno vivamente del colloquio in cui le avrei chiesto quel che non sapevo. In altre parole, vederla accanto a me, sentirla rispondermi con bontà, vedere le sue guance ridiventare grosse, i suoi occhi perdere la loro malizia e prendere un po' di tristezza, insomma, amarla ancora, dimenticare il furore della mia gelosia nella disperazione del mio isolamento. Il doloroso mistero dell'impossibilità di farle sapere ciò di cui ero venuto a conoscenza e di stabilire i nostri rapporti in base alla verità di ciò che avevo appena scoperto e che forse avevo potuto scoprire solo perché lei era morta, metteva la sua tristezza al posto del più doloroso mistero del suo comportamento. Come? Aver tanto desiderato che Albertine sapesse che avevo scoperto la storia delle docce. Albertine, che non era più niente. Ecco un'altra conseguenza della nostra impossibilità, quando dobbiamo ragionare sulla morte, di rappresentarci qualcosa di diverso dalla vita. Albertine non era più niente, ma per me era la persona che m'aveva nascosto di aver avuto a Balbec incontri con donne e si figurava d'essere riuscita a farmelo ignorare. Quando ragioniamo su quanto succederà dopo la nostra morte, non è ancora la nostra persona viva quella che per errore proiettiamo in quel tempo? E in fin dei conti, rimpiangere che una donna che non esiste più ignori che abbiamo scoperto quel che lei faceva 6 anni fa è tanto più ridicolo del desiderare che fra un secolo il pubblico parli ancora con favore di noi che saremo morti. Se c'è maggior fondamento reale nella seconda che nella prima, i rimpianti della mia gelosia retrospettiva derivavano, tuttavia, dal medesimo errore ottico in forza del quale gli altri uomini desiderano la gloria postuma. Eppure, se l'impressione di quanto ci fosse di solennemente definitivo nella mia separazione da Albertine si sostituiva per un momento all'idea delle sue colpe, essa non faceva che aggravarle, conferendo loro un carattere di irrimediabilità. Mi vedevo perduto nella vita come su una spiaggia sconfinata dove fossi solo e dove in qualsiasi direzione mi muovessi, non l'avrei mai incontrata.